insieme alle mie bambole giocavo con l'amore. A 14 anni il primo bacio nelle mani aveva un fiore. Con l'adolescenza io ho capito che cos'era la passione, che non c'entra con il cuore, si confonde col dolore. Se finisse il mondo in questo istante fumerei una sigaretta, metterei un vestito eccezionale, sembrerei una principessa. Chiamerei mio padre solamente per ridirgli che mi manca. Forse sono solo stanca, fuori già si è fatta l'alba. Che mi piacerebbe ritornare tra le braccia di mia madre.